Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Olga. Siete su Radio Città Fujiko, questa è Van Loon ed è la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Si sono appena concluse le celebrazioni per il 74esimo anniversario dell'eccidio di Montesole, meglio conosciuto in Italia come la strage di Marzabotto. Infatti, all'alba del 29 settembre 1944, gli uomini del 16° Battaglione Esplorante, comandato da Walter Raeder, dà inizio alla più grande strage di civili nell'Europa occidentale. Verranno trucidate circa 770 persone, soprattutto anziani, donne e bambini. Siamo a sud-ovest di Bologna, sull'Appennino emiliano, a poche decine di chilometri dalla Toscana, tra le valli del Reno e del Setta, dove si erge l'altopiano, o meglio, l'acrocoro, di Montesole. Il luogo dell'eccidio sono le case, le chiese, le scuole e le strade che ogni giorno queste persone percorrevano. E le località in cui si consuma la strage sono circa 115, comprendono i comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno. Dobbiamo aspettare il 4 ottobre per mettere la parola fine a questa strage. La strage di Marzabotto è stata definita a ragione una guerra contro i civili. Infatti non possiamo parlare di un'azione di guerra antipartigiana, cosa abbastanza usuale nell'Italia occupata dai nazisti, ma un'azione di guerra volta alla completa eliminazione di persone e di cose. Persone che non erano direttamente coinvolte nella resistenza. Un'azione che è il fine di creare una terra di nessuno che potesse servire ai piani tedeschi di difesa della linea gotica, nonostante in quell'autunno 44 i tedeschi erano già certi della loro disfatta. Un attore non di secondaria importanza nella riuscita di questa strage e di moltissime altre stragi che hanno puntellato l'Emilia-Romagna, soprattutto nel 44, è la Repubblica di Salò, con il suo braccio armato, le Brigate Nere, che aiutano le SS a stanare i civili nelle zone impervie dell'Appennino, che non sono di facile percorrenza, e in paesini sperduti. Ci sono infatti molte testimonianze di superstiti che ricordano uomini vestiti in divisa SS che parlano il dialetto locale. Ce lo spiega bene Toni Rovatti, storica che ha curato il progetto Atlante delle Stragi, uno strumento utilissimo per studiare le stragi nazifasciste sul territorio italiano e che noi della redazione avevamo intervistato nel 2017 in occasione della messa online di questo portale. Appunto, la specificità di questa ultima fase di ricerca, anche così ampia a livello territoriale, ha permesso alcuni affondi territoriali che prima non erano possibili, facendo emergere a livello generale un contributo indubbiamente minoritario rispetto, come dire, alla violenza tedesca, ma di un certo rilievo della violenza fascista. Da una parte dei reparti proprio strutturati dell'RSI, diversi reparti con compiti di ordine pubblico e antipartigiani che sono operativi sotto la Repubblica Sociale Italiana, ma anche invece un ruolo, diciamo, dei singoli, se possiamo dire, o comunque di un sottobosco di amministrazione fascista e di politici o di aderenti all'RSI che fungono, hanno un ruolo di guide o di delatori o comunque di collaboratori sul territorio. Se nelle grandi stragi che immediatamente ci tornano alla memoria, per cui le più famose sono Sant'Anna di Stazzema e ovviamente Montesole, il ruolo fascista è un ruolo di collaborazionismo operativo. Ci sono vere e proprie stragi in cui c'è invece un protagonismo come esecutori.

e in questo modo cercare di costruire una memoria comunitaria che potesse unificare in modo artificioso tutti i cittadini dell'Unione Europea. Siete tornati su Radio Città Fucigo, questa è Vallone della vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Stiamo raccontando la strage di Marzabotto, o meglio di Montesole, e siamo arrivati alle celebrazioni della strage. Quest'anno infatti anche noi della redazione siamo andati a Montesole, siamo saliti a Montesole in veste di spettatori e Frey ci racconta quello che hanno visto. Le celebrazioni di quest'anno della strage di Montesole hanno offerto un programma molto ricco, anche se bisogna dire hanno risentito, forse più di altri anni, del clima politico generale e di alcune questioni che sono presenti nel dibattito pubblico. Naturalmente facciamo subito come precisazione che il nostro non è un giudizio come quello che è stato formulato a cavallo fra sabato e domenica e con ricadute anche lunedì da parte di alcuni consiglieri comunali del centrodestra di Marzabotto, che hanno accusato tanto il comune quanto il comitato delle celebrazioni di aver politicizzato un'iniziativa di ricordo che a loro giudizio avrebbe dovuto essere super partes. Noi sappiamo benissimo che è un'affermazione tanto vuota quanto ridicola, per cui non ci interessa entrare in questo discorso quanto fare una riflessione sulla maniera con cui sono state affrontate tematiche del ricordo. La mattina di domenica 3 ottobre, che è la giornata ufficiale delle celebrazioni al Sacrario in paese, a Marzabotto, negli interventi c'è stato un grandissimo spazio per il presente. La crisi ambientale, la crisi sociale e politica dell'Italia, naturalmente, un riferimento inevitabile all'Afghanistan, tanto come guerra quanto come questione dell'emergenza profughi, e la tematica dell'accoglienza con degli ovvi riferimenti alla vicenda giudiziaria e umana, aggiungiamo noi, di Mimmo Lucano. Questo è un elemento che è tipico della maniera di concepire la memoria a Marzabotto. Da parte del comune, da parte della scuola, da parte degli attori territoriali c'è sempre stata la tendenza a raccontare una serie delle memorie di vittime di altre stragi, per cui questo non ci ha stupito. Quello che ci ha incuriosito, diciamo, che volevamo raccontarvi è stato lo spettacolo, diciamo, la performance che è andata in scena il pomeriggio in paese, che era il Nido di Ragno numero 2 di Archivio Z, una compagnia teatrale bolognese che negli anni ha realizzato gli spettacoli soprattutto nel periodo di Ferragosto al cimitero militare germanico. Molto spesso si tratta di tragedie della letteratura greca, e che però quest'anno, negli ultimi anni anzi, la compagnia di Archivio Z sta declinando anche in un racconto della memoria e della storia della resistenza. Nell'arco degli ultimi anni Archivio Z ha realizzato degli spettacoli, delle letture molto molto belle di Cesare Pavese, di Primo Levi, tutte in luoghi simbolo della memoria della guerra dell'Emilia Romagna, e per quest'anno ha fatto una scelta molto interessante per affrontare la tematica della strage, andando a ripescare un aspetto poco noto, poco presente nella memorialistica e nella discussione su Marzabotto, che è quella del referendum sul perdono a Walter Reder, l'ufficiale responsabile delle stragi, che si tenne nel 1967 in città, un referendum rivolto ai familiari delle vittime perché Reder aveva indirizzato una lettera al comune di Marzabotto per chiedere il perdono come strumento poi per ottenere la grazia. Gli attori della compagnia di Archivio Z hanno letto documenti storici, testimonianze e relazioni dell'epoca al fine di permettere agli spettatori di ripensare a quel referendum fra i familiari delle vittime che all'epoca venne respinto a larga maggioranza, cioè il perdono venne respinto a larga maggioranza. La scelta, come dicevamo, è molto interessante anche per il fatto che ha sollevato un aspetto diverso e meno ritualizzato della storia della strage di Montesole. Però in questa scelta, calata in un fine settimana di elezioni, non può che suonare come un mettere in relazione la memoria con le scadenze elettorali del paese, lasciando probabilmente, questo noi non lo sappiamo, non è stato dichiarato dagli attori naturalmente, una riflessione sul confronto fra centrosinistra e centrodestra, una riflessione che forse per noi ha un respiro un po' limitato. Il momento è stato comunque molto, molto alto. Un momento chiave è stato quello dello spoglio delle schede del referendum compilate dal pubblico nel corso della performance, ed è stato un momento veramente molto intenso. Veniva data lettura dei risultati di questo secondo referendum, fra virgolette, all'interno di una performance ispirata alla bilancia della giustizia, con un accompagnamento di oboe e xilofono, ed è stato anche il momento in cui si è fatta una sintesi delle precedenti parti dello spettacolo, e è un momento che ha permesso a chi era presente di tenere insieme i pezzi e di farsi carico di una domanda moralmente ed emotivamente difficile, nonostante la cornice della finzione teatrale e nonostante naturalmente il tempo trascorso. Anche nella domenica 3 ottobre, come fu nel 1967, la maggioranza dei spettatori ha confermato il no in questo referendum, rispetto a un numero esiguo ma non da sottovalutare di sì e due astensioni. Ma le scelte che stanno alla base dei no e dei sì sono a nostro avviso molto variegate, non sono blocchi di marmo uguali nel tempo e nello spazio, hanno a che fare anche con tanti fattori storici, emotivi, culturali e politici molto diversi rispetto al vissuto e alle scelte dei 288 familiari delle vittime che votarono allora. Grazie al racconto che hanno scritto a quattro mani Frey Alessia, che Frey ci ha raccontato mettendoci la voce, e potete trovare tutti i riferimenti di questa puntata insieme ad una mini bibliografia sulla strage di Montesole sul nostro sito www.radiovallun.info a partire da lunedì. Mentre registriamo questa puntata abbiamo saputo della scomparsa a 92 anni di Enzo Collotti, uno degli storici più importanti d'Italia e sicuramente d'Europa, lo storico che con le sue ricerche ha rinnovato la storia del fascismo, la storia dell'antifascismo, della resistenza e della persecuzione ebraica. Abbiamo studiato negli anni dell'università sui suoi libri e resta ancora e resterà per molto tempo un punto fondamentale dei nostri studi, un punto fondamentale delle nostre riflessioni e sicuramente uno dei punti fondamentali della storiografia. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre alle 14, sempre su Radio Città Fujiko. Ciao! One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. Start a simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Offer hands of love to lean on, wouldn't be good enough. And you knew the hand of the devil, and you kept us awake with false teeth, sharing. call for hands up above to lean on. Would it be good enough for me now to call for hands up above?